Cristo segue il tempo, inventa sguardo che abbraccia il cielo mentre piove sornione. Arriva da lontano una goccia d'argento portata dal vento col grigio carico di nuvole. Sfiorerà appena e lascerà una stria sottile sul tuo viso. Tu sai che ti sfiorerà appena e scorrerà poi via leggera dal tuo viso. Nel cuore di una goccia di pioggia che vola dal cielo alla terra. Immagina il viaggio improvviso lanciato da una nuvola nera alla polvere e la disseta. Poi terra bagnata e la linfa che scorre portando ovunque primavera. Impetuoso meandro nel verde di corsa giù fino al mare. Passato un abbraccio concreto di goccia che arriva al mare. Passi leggeri che un'onda cancella tutto quello che resta è l'idea che si possa restare. E come noi riguardiamo l'immagine estinta di qualche fotografia. Si fa più lontana e sbiadisce dentro la nostalgia. Movimento, inventa uno sguardo che abbraccia il cielo, inventa uno sguardo mentre piove sornione. Senti questa pioggia d'argento, anch'io la sento. Senti questa pioggia nel vento, anch'io la sento. Non resta che alzare lo sguardo al cielo, non resta che lasciare che venga la notte. Seu, seu. seu, seu.